verso il voto. Buonasera da Simone Spezia e benvenuti al punto politico della giornata. Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale. Lo scontro tra Walter Veltroni e Silvio Berlusconi si fa decisamente più duro. Oggi giornata campale per il leader del Popolo delle Libertà, una trasmissione radiofonica, due apparizioni televisive e infine comizio a Pescara. Andrea Viali. Rilancia con una controproposta Silvio Berlusconi all'appello di Walter Veltroni, che gli aveva chiesto di firmare un patto di fedeltà alla Costituzione dopo le polemiche per i fucili evocati da Umberto Bossi. Veltroni prometta che la sinistra non farà brogli, la replica del Cavaliere. Credo che sia giusto e doveroso che Veltroni si assuma di fronte al popolo italiano l'impegno a garantire la regolarità del voto, denunciando qualunque tentativo di brogli. Berlusconi esclude poi che in caso di vittoria la presidenza di una delle Camere possa essere assegnata al Partito Democratico. Al momento, dice, non si può chiedere a noi di rinunciare ad una carica istituzionale quando tutte le altre sono in mano alla sinistra. E anche per questo, sostiene Berlusconi in un'intervista al TG3, che in Italia non c'è un regime di piena democrazia. Esiste oggi nel nostro paese un regime che non è di piena democrazia. Oggi non c'è un sistema di pesi e contrappesi, perché la sinistra, pur avendo pareggiato con noi e avendo vinto le elezioni per una serie infinita di brogli, ha messo le mani su tutte le istituzioni dello Stato. Certo, se dopo il voto il Presidente della Repubblica decidesse di dimettersi e fosse eletto un altro capo dello Stato della nostra parte politica, riterrei un dovere dare la presidenza del Senato ad un esponente della sinistra, aggiunge Berlusconi, spiegando però che si tratta solo di un'ipotesi di scuola, parole però subito seguite dalle polemiche, alle quali Berlusconi risponde augurando lunga vita a Napolitano. A stretto giro di telecamere e di comizi la replica di Walter Veltroni, il leader del Partito Democratico, durante la registrazione di Porta a Porta, torna a chiamare per nome Silvio Berlusconi invece di utilizzare la perifrasi il principale esponente dello schieramento avversario. Risponde sui brogli, interviene nella polemica sul Presidente della Repubblica, Vincenzo Miglietta. Si rifà ai valori della Costituzione, rigetta l'ipotesi dei brogli, chiede un voto per far voltare pagina al Paese. Possiamo vincere, dice Veltroni da Napoli, dove dedica gran parte del suo intervento a sottolineare ciò che separa il Partito Democratico dal centrodestra, a partire, dice il leader del PD, dal rispetto delle istituzioni. In particolare sugli scenari avanzati da Berlusconi per il Quirinale, Veltroni dice, è l'ennesimo tentativo di avvelenare costantemente la vita democratica del Paese. È un tono di odio, di contrapposizione, di violento attacco nelle istituzioni, attacco che viene rivolto, e non è la prima volta, a quelle istituzioni nelle quali gli italiani si riconoscono di più. Il capitolo brogli poi al pericolo avanzato da Berlusconi, Veltroni risponde così, a Porta a Porta. Le pare che una persona che parla dal 1994 di brogli, che ci sono solo quando perde le elezioni e non ci sono quando vince le elezioni, possa governare un paese? Noi siamo uniti, dice ancora Veltroni, loro dovranno fare i conti col gigantesco problema rappresentato dalla Lega. La destra ha accettato passivamente che Bossi dicesse quello che ha detto. Imbracceremo i fucili e andremo addosso alle carogne romane. Il Cavaliere non ha onorato in nessun modo il contratto firmato con gli italiani, commenta Veltroni. Io gli propongo un patto per la lealtà repubblicana e lui parla ancora di comunismo. Sulle tasse Berlusconi dice balle, spiega il leader PD che annuncia sulle rendite finanziarie non aumenteremo la tassazione. E duri i commenti anche dagli altri esponenti politici. Fausto Bertinotti, candidato alla presidenza del Consiglio per la sinistra arcobaleno, a nessuno deve essere permesso, soprattutto a chi si candida alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di ledere l'integrità e il valore del Presidente della Repubblica. E poi Pier Ferdinando Casini, che parla invece di comiche finali e poi insiste sul tema dell'alleanza con la Lega. Berlusconi sarà assolutamente vincolato dall'appoggio appunto della Lega, che non gli consentirà di avere un rapporto civile con l'opposizione, di fare i provvedimenti che vuol fare e un rapporto corretto con le istituzioni. E poi c'è il tema del voto utile, ossia dato ai due partiti principali, tema sul quale è tornato e continua a tornare Berlusconi e del quale ha parlato nei giorni scorsi anche Veltroni. Il candidato alla presidenza del Consiglio per l'UDC si esprime in questo modo. Il vero voto utile, questo me l'ha insegnato il mio papà e la mia mamma, che sono le persone che mi hanno dato i primi veri insegnamenti, è il voto di coscienza. Il resto son balle. Applicare il mercantilismo e il cinismo e l'utilitarismo all'idea del voto è la mortificazione della democrazia. Si vota affidando a delle persone in carne ed osso il futuro dei propri figli. E su questo tema Fausto Bertinotti è lapidario. Le elezioni non sono una partita di calcio, c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. E domani, ultimo appuntamento di questa campagna elettorale con i candidati a viva voce subito dopo il GR delle 9. Ospite sarà proprio Fausto Bertinotti. È tutto, buona serata.